Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, ultimo appuntamento con il meglio delle puntate della stagione di Essere Avere. In apertura torniamo a parlare di un'iniziativa che ha raccolto molta curiosità intorno a sé, un Picasso per 100 euro, la lotteria benefica internazionale che rappresenta un modo molto innovativo di fare crowdfunding e un modo altrettanto innovativo, democratico di approcciarsi al mondo dell'arte. E poi qual è lo scenario digital e social italiano? C'è un report che ogni anno ci racconta abitudini, tempi e modi della nostra quotidianità connessa. Spazio anche alla startup italiana leader nell'e-commerce di prodotti per bambini, ha catalizzato attenzione, investimenti e premi nel mondo grazie ad un tavolo magico. E poi ha una piattaforma che misura l'impatto sociale di persone, aziende, infine alla storia di una vera e propria fabbrica di cioccolato in centro a Milano. Perché in casa mia non ci sono appesi i miei dipinti? Perché non posso permettermeli. Pablo Picasso. Chiama un Picasso per 100 euro, la lotteria internazionale di beneficenza promossa a favore dell'ONG CARE, associazione no profit internazionale fondata nel 1945 e presente in un centinaio di paesi nel mondo. Ha messo in palio il quadro Natura morta di Pablo Picasso, un olio su tela valutato dagli esperti almeno 1 milione di euro. Costo del biglietto 100 euro, acquistabile online sul sito dell'iniziativa, 200.000 biglietti al massimo, sorteggio previsto inizialmente il 30 marzo da Christie's a Parigi, poi spostato al 20 maggio causa coronavirus. Ad aggiudicarsi il dipinto una signora italiana che aveva ricevuto il biglietto in regalo, pensate, dal figlio. Il ricavato 5,1 milioni di euro per i 51.000 biglietti venduti in oltre 100 paesi nel mondo, destinato ad un progetto di accesso all'acqua e all'igiene in Camerun, Madagascar e Marocco. Ci ha raccontato tutto all'epoca, lo scorso febbraio, Emanuela Croce, responsabile comunicazione di CARE France. È un'avventura straordinaria per noi questa operazione. Abbiamo incontrato Perico Chan, che è l'ideatrice di questa lotteria, che aveva già fatto un'edizione nel 2013, e abbiamo avuto la fortuna di essere scelti per questa seconda edizione da Perì. Abbiamo presentato un grande progetto molto ambizioso che ora cerchiamo di finanziare attraverso questa lotteria incredibile. Ricordiamo agli ascoltatori come si partecipa, come si compra questo biglietto. È facilissimo, c'è un sito internet che è unpicasso100euro.com, 1 e 100 scritti a numero, si va sul sito, si prende il biglietto, si può vincere un Picasso da 1 milione di euro e si aiutano 200.000 persone in Africa. Il quadro da dove proviene? Dal più grande collezionista di Picasso, che si chiama David Namad. Il quadro viene comprato a David Namad, che l'ha messo a disposizione al prezzo di 1 milione di euro, ma lui ci dice che potrebbe anche valere di più oggi, poi che questi quadri prendono continuamente valore. Perché voi con questi 19 milioni di euro, se l'obiettivo dei 200.000 biglietti viene raggiunto, meno il 1 milione di euro del quadro, se ho fatto bene i conti, 19 milioni di euro per fare che cosa con CARE? Totalmente trasparenti, ci saranno anche delle spese poi per spedire il quadro, delle spese di comunicazione per comunicare, quindi sarà un pochino meno di 19 milioni. Poi abbiamo deciso di costruire questo progetto intorno all'acqua, all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici in 3 paesi, quindi in Marocco, in Camerun e in Madagascar, dove portare acqua vuol dire portare vita, vuol dire portare salute, igiene e vuol dire anche portare accesso all'educazione. Questo progetto porterà l'acqua soprattutto nelle scuole, nei dintorni delle scuole, quindi acqua potabile ma anche servizi igienici. Questo vuol dire che i bambini hanno più tendenza, i ragazzi hanno più tendenza a rimanere a scuola, che la scuola diventa un centro del villaggio importante, ma anche che le ragazze possono stare a scuola per due fattori, perché nel mondo ogni giorno le donne e le ragazze spendono 200 milioni di ore ogni giorno per andare a cercare l'acqua. Avere dei servizi igienici a scuola permette di non essere descolarizzate quando arriva la pubertà. Questa è un'iniziativa che mette insieme arte e filantropia, crowdfunding e accesso democratico, per così dire, all'aggiudicazione di opere d'arte. Sotto il segno, insomma, di una cifra molto pop, diciamo così, ecco. Quanto il mondo delle ONG in questo momento, del crowdfunding in generale, ha bisogno di operazioni come queste che arrivano alla gente in un modo così diretto? Tantissimo. Il nostro problema di tutte le associazioni è innanzitutto emergere con delle tematiche lontane e non così accessibili alle persone in Europa, nel mondo occidentale è difficile parlare di queste tematiche e quindi figurati mobilitare delle risorse, dei fondi per i nostri progetti. Emergere in modo un po' diverso, con un messaggio positivo, con un messaggio legato al bello e non solo alla sofferenza, per noi già questa è una cosa estremamente nuova e importante. Cambiamo argomento, sapete che gli italiani ormai trascorrono online un quarto della loro giornata, 6 ore in media. Gli utenti che accedono alla rete ogni giorno sono arrivati a quota 50 milioni, 45 da mobile, 35 milioni le persone attive sui social, dove trascorrono ogni giorno circa un paio d'ore, e sono 8 gli account per ogni persona. Sono i numeri di Digital 2020 firmato We Are Social, il report annuale che analizza lo scenario social e digital a livello locale e globale, che quest'anno ha rilevato un dato su tutti: la metà della popolazione mondiale, pensate 3,8 miliardi di persone, utilizza regolarmente i social media. In evidenza il mondo del gaming, con 4 italiani su 5 che giocano. Ne abbiamo parlato con i CEO di We Are Social Italia, Gabriele Cucinella, Ottavio Nava e Stefano Maggi. Ecco che cosa ci hanno detto. Forse i trend più interessanti sono quelli dell'intrattenimento, in crescita fortissima. Quasi il 95% della popolazione vede contenuti video online, questo vuol dire che ormai è un elemento fondamentale nel paniere di consumo di contenuti. I wearable crescono, un italiano su 7 indossa qualcosa connesso a internet, che è una cosa che qualche anno fa ci sarebbe sembrata quasi fantascienza, invece è diventata una cosa comune in tantissime case e in tantissime famiglie, e grandissima crescita anche del mondo del gaming. Si parla sempre dell'Italia un pochino indietro in tanti casi, invece il report testimonia come l'adozione digitale su diversi livelli sia ormai veramente matura. Panorama Social registra una posizione stabile, diciamo, dei due mondi Facebook e Google con tutto il loro ecosistema di app, e però vede anche scalare la classifica a piattaforme diverse come LinkedIn, come Twitter, e soprattutto entrare sopra il 10% una piattaforma come TikTok. Questo, diciamo, che segna rispetto al più recente passato in cui sembrava che ogni piattaforma avesse uno e un solo utilizzo in una strategia di canale, anche ad esempio per i brand, un ritorno a una diversificazione degli utilizzi di tutte le piattaforme. Questo quindi impone da parte dei brand una maggiore conoscenza delle dinamiche specifiche delle singole piattaforme, dei linguaggi e dei modi in cui le persone effettivamente poi li utilizzano. L'entrata in classifica di TikTok segna anche un'apertura verso un target molto giovane, che adotta per la prima volta una piattaforma in maniera unica, e però sta registrando anche qui l'ingresso di fasce demografiche di età superiori, un po' come diversi anni fa è successo per Facebook e poi per Instagram. Quindi diciamo che c'è un'omogeneità sia di pubblici sia di cluster demografici, e invece una diversificazione di utilizzi e di formati che ci fa pensare a un paio di prossimi anni interessanti da un punto di vista anche di competizione delle piattaforme per il tempo delle persone. Il fenomeno gaming è sicuramente uno degli elementi guida dal punto di vista dell'intrattenimento anche per l'Italia. Basti pensare che 4 persone su 5 hanno utilizzano game di vario tipo quotidianamente o in maniera comunque costante nella propria vita, e parliamo di game di tipologie diverse, da game che possono essere un semplice passatempo che viene fatto sullo smartphone, a game che hanno proprio l'obiettivo di connettere a livello sociale delle persone. Basti pensare che alcuni tra gli eventi più importanti a livello mediatico hanno avuto nell'ultimo anno anche un riverbero su piattaforme come Fortnite, per esempio, che è diventato un po' un anello di congiunzione e un luogo di socializzazione per tantissime persone anche in Italia. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parleremo di un tavolo magico che segna il successo mondiale di una startup italiana, ma anche di onit.org, la social community dello sviluppo sostenibile, e poi di una storia molto golosa che inizia nel centro di Milano. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, ora vi raccontiamo la storia di Mukako, startup che realizza e vende online in Italia e nel mondo prodotti per bambini. Fondata nel 2015, ha raccolto oltre 7 milioni e mezzo di euro di finanziamenti. Il suo prodotto di punta è Mutable, un tavolo di design multigioco vincitore del Red Dot Award, uno dei premi di design più prestigiosi al mondo. Ora, che cosa ci ha detto la co-founder e AD di Mukako, Martina Cusano? Noi siamo partiti dall'Italia all'inizio vendendo i prodotti terzi. Quando però abbiamo deciso di fare il nostro prodotto, siamo partiti proprio con una campagna di crowdfunding su una piattaforma americana che si chiama Kickstarter per appunto Mutable, che è questo tavolo multifunzione che cresce col bambino. È stata una campagna di successo, la seconda campagna che abbiamo fatto un anno dopo è stata la seconda campagna più finanziata al mondo per prodotti per bambini e la prima per un prodotto di design per bambini, e successivamente si è aggiudicato diversi premi di cui siamo veramente orgogliosi, tra cui prima di tutto abbiamo vinto il Red Dot Design Award, che è uno dei premi internazionali, un premio tedesco molto famoso a livello mondiale. Poi abbiamo vinto il Parents Choice Award, il Golden Award, quindi la categoria massima, che è il premio per prodotti per bambini più importante negli Stati Uniti. E poi selezione delle ADI Design Index, che è l'associazione design italiano, che è la selezione che permette di accedere al premio per il Compasso d'Oro, che è ovviamente il premio dei sogni di chiunque faccia design, sicuramente in Italia ma anche al mondo. L'Olimpo del design, dove ci sono grandi nomi dei designer italiani e non. Adesso ci riprovate con un altro prodotto, secondo la stessa logica, Mu-Wall. Ce la racconti questa parete magica? Sì. Bella la definizione parete magica. È un po' nello spirito in cui abbiamo sviluppato il tavolo, anche Mu-Wall è una parete che cresce con il bambino. In questo caso è una parete attrezzata, quindi sono dei pannelli di legno che si attaccano alla parete e sui quali è possibile posizionare tutta una serie di oggetti anche molto originali, dei box, piuttosto che dei ganci per appendere tutti i peluche, una libreria in forma di arcobaleno, un sottomarino, quindi una sorta di zona in cui il bambino può andare a riposarsi, a trovare un attimo un momento di relax, e abbiamo anche un castello meraviglioso che appunto si aggancia alla parete, che crea proprio un nido all'interno della cameretta del bambino. E abbiamo lanciato una campagna su Kickstarter. Ovviamente l'obiettivo nostro non è solo quello di finanziare lo sviluppo del prodotto, ma anche quello di avere feedback, di poter capire che cosa piace di meno, come migliorarsi. Credo che sia proprio il nostro modo di fare innovazione, tutto nasce dal dialogo col cliente, e per noi questo è il modello con cui continuiamo a sviluppare i nostri prodotti. Uno dei risvolti positivi della pandemia è stato mostrarci quanto rapidamente possiamo modificare in modo radicale i nostri stili di vita. La crisi ha costretto quasi subito aziende e persone a rinunciare a pratiche ritenute da tempo essenziali, come viaggiare spesso in aereo o lavorare in ufficio. Al contempo, i cittadini si sono ampiamente dimostrati disponibili a fare dei sacrifici per il bene dei professionisti sanitari e delle altre figure lavorative essenziali, nonché delle persone più a rischio, come gli anziani.

prodotto riprodotto anche in Italia e in Europa sicuramente nei prossimi anni. Quindi avere una persona, uno studente, un giovane al giorno d'oggi interessato anche a sviluppare il suo curriculum sociale, secondo me è un valore aggiunto per ogni persona. Sapete che nel centro di Milano esiste una vera e propria fabbrica di cioccolato. Si tratta della Luigi Zaini, che dal 1913 e da tre generazioni produce e commercializza in 80 paesi nel mondo prodotti a base di cacao. Una storia non solo di made in Italy e di eccellenza, ma anche di responsabilità sociale, che l'azienda ha deciso di trasformare in un innovativo progetto di comunicazione. Una linea di prodotti, le cui confezioni raccontano al consumatore attraverso una serie di ritratti delle coltivatrici di cacao, ritratti molto intensi firmati dal fotografo Francesco Zizzola, un progetto di imprenditoria femminile in Costa d'Avorio. Ecco come ce l'ha raccontato Antonella Zaini. È un'iniziativa che l'azienda ha fatto in un paese molto rilevante per le materie prime che noi acquistiamo e che è la Costa d'Avorio. Il progetto consiste nell'avviamento di una fabbrica di produzione di saponi. È un progetto di imprenditoria femminile, nel senso che abbiamo sostanzialmente cercato di aiutare delle donne ivoriane a fare in maniera, diciamo, più industriale quello che quotidianamente fanno nelle loro case, con scarsissimo, direi, riconoscimento, che è la produzione di saponette. Abbiamo acquistato un capannone, abbiamo acquistato dei macchinari, ovviamente semplici, utilizzabili da persone che non hanno mai fatto le operaie in vita loro, e abbiamo dato loro la possibilità di raggrupparsi, di svolgere un lavoro che dà loro una dignità sociale, oltre che una valenza economica, perché questi saponette che loro vanno a produrre vengono vendute ovviamente nei villaggi limitrofi. Ha anche una valenza, diciamo, igienica, perché per assurdo il mancato utilizzo del sapone è quello che porta ancora tantissime malattie in questi territori. E poi i volti di queste donne, e quindi di conseguenza anche le loro storie, sono finite sulle confezioni dei vostri prodotti. Sì. Questo progetto è stato illustrato e fotografato da Francesco Zizzola e abbiamo deciso di fare questa produzione di 4 tavolette che hanno il cacao al 70, 80, 90 e 100%. La filiera della vostra materia prima, il cacao, è una filiera importante, è una filiera che, come ha ricordato, tocca i paesi in via di sviluppo. Voi sostenete anche l'associazione Cocoa Horizons, che vuole migliorare le condizioni di lavoro in questi paesi. Sì, in realtà è una fondazione che vuole migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei coltivatori del cacao. Diciamo che è una fondazione che ha una ragion d'essere che va al di là della finalità puramente caritatevole. La pianta del cacao cresce in appezzamenti di terreni che sono piccolissimi, che appartengono a tantissime famiglie di coltivatori. Non sono le multinazionali che sono direttamente proprietarie delle piantagioni, per cui la presenza, la sopravvivenza e la volontà di queste persone di continuare a fare questo lavoro di generazione in generazione, di non fuggire verso le città, è qualcosa che danneggerebbe anche l'industria, insomma, ovviamente. Per cui, ecco, questo penso che sia importante precisarlo. Finisce qui anche questa puntata, meglio di essere avere nella sua versione classica. Vi dà appuntamento a settembre, ad agosto, controllate bene il palinsesto perché, come anticipato, ci sarà una sorpresa. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso! Su aruba.it